il principe di Pfaffenheim non era un ingenuo. Fine diplomatico, come lo avrebbe chiamato il dottor Cottard. Sapeva che Norpois lo era non meno di lui e non aveva nessun bisogno di sentirselo dire per rendersi conto che avrebbe fatto cosa gradita a un candidato se avesse votato per lui. Sia in veste d'ambasciatore, sia come ministro degli esteri, il principe aveva tenuto, per il suo paese anziché come ora per se stesso, quel genere di conversazioni in cui si sa in anticipo sin dove si vuole arrivare e che cosa non vi faranno dire. Non ignorava che, nel linguaggio diplomatico, parlare significa offrire. Perciò aveva fatto avere a Norpois il cordone di Sant'Andrea. Ma se avesse dovuto riferire al suo governo circa il colloquio successivamente avuto con Norpois, avrebbe potuto redigere il suo dispaccio in questi termini: «Ho capito d'aver sbagliato strada». Infatti, dopo un suo nuovo accenno all'Institut, Norpois si era affrettato a ribadire: «Oh, ne sarei lieto, molto lieto per i miei colleghi. Si sentiranno, penso, profondamente onorati della vostra attenzione. È una candidatura davvero interessante, leggermente eccentrica rispetto alle nostre abitudini. Come sapete, l'Accademia è molto consuetudinaria, diffida di tutto ciò che suona un po' nuovo. Personalmente deploro questo atteggiamento. Quante volte mi è capitato di tradirmi davanti ai miei colleghi? Non escludo, Dio mi perdoni, che una volta mi sia sfuggita di bocca la parola fossilizzati», aveva aggiunto con un sorriso scandalizzato, sommessamente, quasi a parte come si fa a teatro, e gettando sul principe uno sguardo rapido e obliquo del suo occhio azzurro, come un vecchio attore che vuole controllare l'effetto della sua battuta. «Capite, principe, non potrei mai permettere che una personalità eminente come la vostra si imbarcasse in un'impresa senza prospettive di successo. Finché le idee dei miei colleghi rimarranno tanto retrive, ritengo che astenersi sia la cosa più saggia. Vi garantisco, d'altronde, che se mai vedessi uno spirito un po' più nuovo, un po' più vivace delinearsi in quel collegio che tende a diventare una necropoli, se mai potessi contare per voi su una possibilità favorevole, sarei il primo a darvene notizia». «Il cordone di Sant'Andrea è stato un errore», pensò il principe. «Le trattative si sono arenate. Non era questo che voleva. Non ho toccato il tasto giusto». Era un tipo di ragionamento di cui il signor di Norpois, formatosi alla stessa scuola del principe, sarebbe stato a sua volta capace. Ci si può far beffe della pedantesca scempiaggine con cui i diplomatici alla Norpois s'estasiano davanti a un'espressione ufficiale pressoché insignificante. Ma questa puerilità ha una contropartita. I diplomatici sanno che, sulla bilancia che assicura l'equilibrio, europeo o extraeuropeo, cui si dà il nome di pace, i buoni sentimenti, i bei discorsi, le perorazioni pesano pochissimo. E il peso che pesa, il peso reale, determinante, consiste in qualcos'altro, nella possibilità che l'avversario possiede, se è abbastanza forte oppure non possiede, di soddisfare, a titolo di scambio, un particolare desiderio. Con un siffatto ordine di verità che una persona totalmente disinteressata, come ad esempio mia nonna, non avrebbe capito, il signor di Norpois o il principe von avevano ripetutamente a che fare. Incaricato d'affari in paesi con i quali eravamo stati a un passo dalla guerra, Norpois, preoccupato della prossima piega degli avvenimenti, sapeva benissimo che essa non gli sarebbe stata segnalata dalla parola pace o dalla parola guerra, ma da qualche altra parola, in apparenza banale, in realtà terribile o benedetta, di cui il diplomatico, con il soccorso del suo cifrario, avrebbe immediatamente colto il significato e alla quale, per salvaguardare la dignità della Francia, avrebbe risposto con un'altra parola altrettanto banale, ma sotto la cui superficie il ministro della nazione nemica avrebbe eletto senza esitazione guerra. Anzi, secondo un'antica consuetudine, analoga a quella che dava al primo approccio di due creature promesse l'una all'altra la forma di un incontro fortuito a uno spettacolo del teatro del gymnase, il dialogo, nel corso del quale il destino avrebbe dettato la parola guerra o la parola pace, non avveniva generalmente nell'ufficio del ministro, ma sulla panchina di un Kurgarten, dove il ministro e Norpois si recavano entrambi alle fontane termali per bere, direttamente alla sorgente, piccoli bicchieri di un'acqua curativa. Per una sorta di tacita convenzione, si incontravano all'ora della cura e cominciavano col fare insieme qualche passo d'una passeggiata che i due interlocutori sapevano essere, sotto la sua apparenza benevola, non meno tragica ad un ordine di mobilitazione. Ora, in un affare privato come quella presentazione all'Institut, il principe aveva applicato lo stesso sistema di induzioni del quale si era valso nel corso della carriera, lo stesso metodo di lettura per simboli sovrapposti. Non pretendo certo che mia nonna e i suoi rari simili fossero i soli ad ignorare questo genere di calcoli. La media dell'umanità, esercitando professioni delineate a priori, raggiunge in parte, grazie alla sua mancanza d'intuito, l'ignoranza di cui la nonna era debitrice al suo nobile disinteresse. Bisogna scendere spesso fino ai mantenuti, uomini o donne, per dover cercare il movente dell'atto delle parole apparentemente più innocenti nell'interesse, nella necessità della sopravvivenza. Quale uomo, quando una donna che gli sa d'esser tenuto a pagare gli dice «Non parliamo di denaro», ignora che questa frase deve essere considerata quel che in musica si chiama «una battuta vuota» e che in seguito, se gli dichiara «Mi hai fatto troppo soffrire, non mi dici mai la verità, non ce la faccio più», dovrà interpretare «Un altro protettore mi offre più di te». E questo è ancora il linguaggio di una cocotta abbastanza vicina alle donne della buona società. Gli Apache offrono esempi più eloquenti. Ma il signor di Norpois e il principe tedesco, se non conoscevano gli Apache, si erano abituati a vivere sullo stesso piano delle nazioni e queste sono a loro volta, a dispetto della grandezza, esseri egoisti e astuti che si possono domare solo con la forza o con l'interesse, il quale può spingerle sino all'omicidio, omicidio in molti casi simbolico anch'esso, giacché il rifiuto di battersi o la semplice esitazione a battersi possono significare, per una nazione, perire. Ma poiché tutto questo non sta scritto nei vari libri bianchi o d'altro colore, il popolo è spesso e volentieri pacifista. Se è a favore della guerra, lo è istintivamente per odio, per rancore, non certo per le ragioni in base alle quali i capi di Stato, consigliati dai Norpois, prendono le loro decisioni. L'inverno seguente, il principe ebbe una grave malattia. Si ristabilì, ma il suo cuore rimase irrimediabilmente compromesso. «Diamine!» pensò. Dovrei cercare di non perdere altro tempo per l'Institut. Se me la prendo troppo comoda, rischio di morire prima della nomina. Sarebbe veramente spiacevole. Scrisse per la Revue des Deux Mondes un saggio sulla politica dell'ultimo ventennio, zeppo delle più lusinghiere espressioni sul conto di Norpois. Questi andò a ringraziarlo. Aggiunse che non sapeva come manifestargli la sua riconoscenza. Il principe si disse, come uno che abbia infilato invano in una serratura l'ennesima chiave, «Non va bene neanche questa!» E poiché nel riaccompagnare alla porta Norpois si sentiva mancare il fiato, pensò «Per la miseria! Quella brava gente è capace di lasciarmi crepare prima di decidersi! Facciamola finita!» La sera stessa incontrò l'ambasciatore all'Opera. «Caro amico!» gli disse. «Stamani mi dicevate di non sapere come dimostrarmi la vostra gratitudine. È uno scrupolo eccessivo, non mi dovete proprio nulla. ma io sarò così indelicato da prendervi alla lettera. Del tatto del principe di Pfaffenheim, il signor di Norpois aveva altrettanta stima quanto l'altro del suo. Capì immediatamente che quella che il principe stava per fargli non era una domanda, ma un'offerta, e si fece un dovere d'ascoltarlo con sorridente affabilità. «Mi troverete, temo, alquanto indiscreto. Ci sono due persone alle quali sono molto affezionato, sebbene, come subito capirete, in maniera affatto diversa, e tutte e due si sono trasferite di recente a Parigi, dove contano di stabilirsi. Mia moglie e la granduchessa Jean daranno qualche pranzo, particolarmente in onore del re e della regina d'Inghilterra, e il loro sogno sarebbe stato di poter offrire ai loro ospiti la presenza di una persona per la quale, pur non conoscendola, nutrono entrambe una grande ammirazione. Confesso che non sapevo proprio come aiutarle a soddisfare tale desiderio, quando, poco fa, ho scoperto per puro caso che voi conoscete quella persona. So che conduce una vita estremamente ritirata, che vede ben poca gente, autentici happy few. Ma se voi mi concedeste il vostro appoggio, con la benevolenza che vi degnate testimoniarmi, non dubito che mi strappereste il permesso di presentarmi in casa sua per esprimerle il desiderio della granduchessa e della principessa. Forse accetterebbe di pranzare con la regina d'Inghilterra. E poi, chissà, se la nostra compagnia non le dispiacesse troppo, di passare con noi le vacanze di Pasqua a Beaulieu, in casa della granduchessa Jean. La persona alla quale mi riferisco è la marchesa de Villeparisis. Confesso che la speranza di diventare un habitué d'un tale banco di intelligenza mi consolerebbe. Mi darebbe la forza di rinunciare senza rammarico a candidarmi all'Institut. Anche nel salotto della marchesa si tiene commercio di idee e conversazioni prelibate. Con un senso di inesprimibile piacere, il principe si accorse che la serratura non opponeva resistenza, che quella chiave finalmente entrava nella toppa. «Una simile opzione è assolutamente inutile, caro principe», replicò il signor di Norpois. «Niente si concilia con l'Istituto meglio del salotto di cui parlate, e che è un autentico vivaio di accademici. Trasmetterò la vostra richiesta alla marchesa di Villeparisis, ne sarà certamente lusingata. Quanto all'accettare un invito a pranzo sarà forse più difficile, perché esce pochissimo. Ma vi presenterò, e sarete voi stesso a perorare la vostra causa. Soprattutto, non bisogna rinunciare all'Accademia. Sarò giusto a colazione fra 15 giorni, per poi recarci assieme a una riunione importante, da Le Roi Beaulieu, senza il quale non si può eleggere nessuno. Tempo fa avevo buttato là, in sua presenza, il vostro nome, che lui naturalmente conosce a meraviglia. Aveva sollevato alcune obiezioni, ma si dà il caso che egli abbia bisogno dell'appoggio del mio gruppo per la prossima elezione e ho intenzione di tornare alla carica. Gli parlerò con la massima franchezza dei rapporti di viva cordialità che ci uniscono. Non gli nasconderò che, qualora avanziate la vostra candidatura, chiederò a tutti i miei amici di votare per voi». E il principe mise un profondo sospiro di sollievo. «E lui sa che ne ho di amici. Ritengo che, se riuscissi ad assicurarmi il suo contributo, le vostre possibilità diventerebbero molto concrete. Venite quella sera alle 6 da Madame de Villeparisis. Vi presenterò e vi ragguaglierò sui miei colloqui del mattino».